voglio bene, tanto, tanto bene, tu sia vita mia. Mai mi soffoco d'in te vene e in tuo cuore n'amaria. E na passiona sospiro se dolce piccerella mia. E nu pensiero triste allero e na smanie te fa sa. Puro cielo solo mare io te donasse. E sta vita amore mio si ma cercasse, perché te voglio bene, tanto tanto bene, tu sia vita mia. Perché sto bene che in catteno core non me fa dormire, vita mia, vita mia, te voglio bene, tanto tanto bene, te lo voglio dire. Cercasse, perché te voglio bene, tanto tanto bene, tu sia vita mia. Perché sto bene che in catteno core non me fa dormire, vita mia, vita mia. Te voglio bene, tanto, tanto bene, e te lo voglio.